Europa 24. Buon pomeriggio, noi ripartiamo dalla plenaria del Parlamento europeo che ha approvato la nuova Commissione europea guidata da Jean-Claude Juncker. Allora, Beda Romano in diretta ci racconta tutto. Buon pomeriggio, Beda. Pronto, Beda? Sì, buon pomeriggio da Strasburgo. La nuova Commissione Juncker ha ricevuto infatti il benestare del Parlamento con 423 sì, è stato un voto più o meno in linea con le attese. Questa commissione entrerà in funzione il 1 novembre ed è una commissione che sarà appoggiata da una grande coalizione di socialisti e popolari. Il voto di oggi ha mostrato alcune defezioni, soprattutto nei ranghi dei socialisti e dei liberali. Anche i liberali stanno appoggiando questa commissione, ma con riserva. Il discorso di Juncker questa mattina è stato un discorso molto politico e l'annuncio forse più importante e più atteso è stato quello di una conferma sul piano di investimenti da 300 miliardi di euro. Lo stesso Juncker lo aveva promesso in luglio, oggi ha confermato che presenterà il piano entro la fine dell'anno, entro Natale. Non ha voluto dare particolari dettagli sul tipo di piano e soprattutto sull'equilibrio tra fondi privati e fondi pubblici. Grazie a Beda Romano in diretta per noi da Strasburgo. Dunque il piano, che di fatto è il grande tema della politica, piano cui si è riferito questa mattina anche il primo ministro, il presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi. Ma naturalmente nel vertice europeo che domani e dopodomani si svolge viceversa a Bruxelles, c'è un altro grande capitolo che è quello che riguarda la strategia in materia di clima ed energia per il 2030. I negoziati su questo tema occuperanno tutta la prima sessione dei lavori. A poche ore dall'inizio del Consiglio europeo, il tema della strategia in materia di clima e energia per il 2030 resta al centro dei negoziati fra gli ambasciatori dei 28. La strategia per il 2030 è un tema impegnativo che richiede sforzi da parte di tutte le delegazioni, ha scritto il presidente dell'Unione Europea Herman Van Rompuy nella lettera di invito ai leader. È molto importante, sottolinea, che l'Unione Europea mostri il suo ruolo in vista dei prossimi negoziati internazionali sul clima. Van Rompuy punta a un accordo prima della scadenza del suo mandato, ma non sarà facile, come ha ricordato Matteo Renzi in aula al Senato. Vi sarà, io credo, una contrapposizione all'interno del Consiglio. Alcuni paesi insistono per essere particolarmente prudenti, utilizziamo un eufemismo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Europa 24, adesso cambiamo pagina, parliamo di sport, noi ci risentiamo domani alla stessa ora, un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.